amo la razza umana perché può, a differenza di animali e fiori, far quello che non deve fare. E questo è libertà, piacere di incontrare lo sconosciuto e costruire case dove abbracciare chi non ci somiglia. Questa volta ci mando in galera! Eppure ci deve essere un posto dove sia possibile abbandonarsi e che questo sia vita e non sia morte. Saremo come giunchi sulla riva, bagnati dall'acqua bassa, da un sonno lungo alla deriva. Questa volta ci mando in galera! Perché siamo arrivati all'improvviso, precipitati da un cielo infinito, senza un inferno e senza un paradiso. Questa volta ci mando in galera! Perché il nostro cervello è il nostro cuore, esattamente come per l'amore, la vita non ha mai nessun motivo. Questa volta ci mando in galera! Esattamente come per la vita, l'amore non ha mai nessun motivo.